Sudafrica 2010, i mondiali in diretta. Buongiorno da Johannesburg e da Dario Ricci. Il mondiale dell'Italia inizia ora. È la parola d'ordine di Marcello Lippi dopo l'1-1 contro la Nuova Zelanda e in vista della sfida di giovedì contro la Slovacchia, decisiva per la qualificazione agli ottavi. Ieri faccia a faccia tra il CT e la squadra sul campo d'allenamento di Centurion, poi Lippi nell'incontro con la stampa ha fatto un bilancio del cammino finora compiuto. Nel contesto in cui una squadra dimostra di avere difficoltà a concretizzare, anche a finalizzare, però comunque conferma che ha una sua solidità, anche se ha preso due gol in una certa maniera, tra l'altro non so se avete fatto caso, ma spinta di Red su Gilardino e fuori gioco ancora prima che Red colpisca la palla di testa, c'era già un giocatore in fuori gioco. Vabbè, comunque questo non vuol dire. E comunque, come ha detto lei, una certa conferma di avere un atteggiamento difensivo che ha concesso pochissimo, soprattutto a Paraguay. Ovvio, ho detto prima che sarebbe stato normale concedere pochissimo alla Nuova Zelanda a cose normali, figuriamoci dopo che questi sono andati in vantaggio dopo 5 minuti di un gol. È chiaro che sono stati lì dietro a buttare via pallone tutta la partita, è normale. Poi uno sguardo già alla sfida con gli slovacchi. Serve un'Italia senza paura, chiarisce il CT. Ecco, non vorrei che... Io stamattina ho letto una cosa di Capello che diceva i miei giocatori sono terrorizzati dal terrore del mondiale. Ho letto questo. Non vorrei che succedesse questo anche a noi. Che abbiamo la consapevolezza che stiamo facendo meno di quelle che sono le nostre possibilità, ma che il nostro mondiale debba ancora cominciare in pratica. Questa deve essere la consapevolezza. E non è detto che arrivare... Non è che tutte le volte puoi avere un percorso, una corsia preferenziale per arrivare in fondo. Non è detto che se ti capitano delle squadre... A parte che può ancora succedere di tutto. Può succedere che vinci il girone, può succedere che arrivi secondo, può succedere tutto. Ma non è detto che per caso succedesse che dobbiamo affrontare delle squadre importanti sia... La cosa peggiore che ci possa capitare. Non è detto nulla di tutto questo. Sulla stessa linea il presidente della Federcalcio Giancarlo Abete, che respinge le polemiche su chi in Sudafrica non c'è. Se noi non fossimo convinti, in primis il tecnico e i calciatori, che era lecito aspettarsi qualcosa di più, vorrebbe dire che non siamo, come dire, consapevoli di un differenziale reale e teorico che poi non si è concretizzato in un risultato. Questo è naturale, di qui l'amarezza e in qualche modo la delusione, però una volta che tu sei rimasto deluso e amareggiato, però devi rilanciare una logica di fiducia perché abbiamo una partita importante e una partita che dobbiamo saper giocare bene. Siamo ancora padroni del nostro destino, Presidente, siamo ancora padroni del nostro destino, è l'ultima chiamata per questo gruppo. Dall'Italia rimbalzano le voci dei tifosi sugli assenti, chi doveva essere qui, chi non doveva essere qui. Un fatto abbastanza naturale, le voci relative alla migliore formazione e ai giocatori che devono essere convocati sono presenti nel dibattito del calcio italiano anche per le squadre quando vincono sempre, figuriamoci quando tu non riesci a vincere. Se noi ce la prendiamo con un attacco che fatica a trovare il gol, c'è chi davvero questo problema l'ha risolto brillantemente. Parliamo del Portogallo che nel gruppo G ha travolto 7-0 la Corea del Nord, tra i marcatori doppietta di Thiago e gol di Cristiano Ronaldo. In classifica Brasile a 6 punti, Portogallo 4, Costa d'Avorio 1 e Corea del Nord a 0. Nel gruppo H riscatto della Spagna che supera 2-0 l'Honduras con una doppietta di David Villa. Spagnoli ora a 3 punti insieme alla Svizzera battuta 1-0 dal Cile capolista a quota 6 grazie a un gol di Gonzales espulso Berami alla mezz'ora. Si decide tutto nell'ultima giornata. Oggi verdetti definitivi da due gruppi. Nel gruppo A si affrontano alle 16 Messico-Paraguay e Sudafrica-Francia. A messicani e uruguayani basta il pari per qualificarsi entrambi agli ottavi. Nel gruppo B alle 20:30 in campo Nigeria, Corea del Sud e Argentina-Grecia. Argentina in testa con 6 punti, poi Corea del Sud e Grecia a 3, Nigeria a 0. Da Johannesburg è tutto, ancora un augurio di buona giornata.